Mamma! Mamma! Patrina, da un astuco! Furbuti, scende! Ciacco, perdon, ma lo sguardi! Sei di ei su faclaio! Ma ne fallai min, ne hati saki! Sei poi demone, si corei Mama, klausykit, jei nesugrįšiu, jei...